stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più. Dalla collina si attende primavera, ma non c'è quel che c'era, non ci sei più tu. Ho trovato la tua bambola, mi è sembrato di vederti ancora. Eri così piccola, la stringevi fino a sera. È passata già un'eternità, ho solamente un'ora. Da quando nel cielo una nuvola risale dalla tua casa, dalla mia casa. Stella, stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più. Dalla collina si attende primavera, ma non c'è quel che c'era, non ci sei più tu. Ho cercato di strapparmi il cuore, perché senza non si muore, ma ho avuto paura nel mentre di non sentire più niente. Ho pensato anche di scappare da una terra che non ci vuole, ma non so dove andare, tra muri e mare non posso restare. Stella, stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più. Dalla hai vissuto solo un giorno.